24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:22 minuti e è ritornato il nostro alpino Peter Bescapelli in regia. Tra l'altro ne potete vedere una foto che spopola già su Facebook nel nostro sito 24 mattino. C'è l'alpino lì in primo piano praticamente, andate sul sito se volete, seguiteci anche su Twitter, @Alino Milan sono io, @24mattino è la trasmissione, Peter Bescapè non me lo ricordo ma poi ve lo dirò. Intanto noi avremo alle 8:20 Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per parlare dei presunti privilegi nelle polemiche, no, da qualche giorno. Poi parleremo di questa vicenda di cronaca che parte dalla Francia, dove i genitori si sono ribellati contro i compiti a casa. Parleremo di scuola con il sottosegretario all'istruzione. Basta compiti a casa, che ne pensate? So che magari siete reduci, cari genitori, dall'ennesimo weekend passato sui libri dei vostri figli. È giusto non dare compiti a casa? Cioè la scuola faccia la scuola, si impara tutta a scuola, oppure... è giusto che i ragazzi anche a casa studino dopo essere stati magari 8 ore sui banchi. Che ne pensate? Di questo parleremo alle 8:30. Ora andiamo a vedere che cosa ci propongono i quotidiani in edicola. È lunedì 2 aprile, dunque niente pesci, lì se ne avete scampati in onda. E allora i titoli intanto, il Sole 24 Ore, fisco, così cambiano i ricorsi, arretrato in aumento. Questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera, come per tutti i quotidiani, è l'IMU, il pasticcio dell'IMU o dell'ex ICI, che prende le prime pagine. Dubbi sull'IMU, chiesto il rinvio, così apre il Corriere della Sera. La Stampa invece, IMU, la stangata dei comuni. Il Giornale, caos sull'IMU, il fisco è ubriaco. Il Messaggero, IMU, nuove regole per pagare. Pasticcio IMU, così titola l'Unità. Il Secolo XIX, allarme, esodi e IMU, tensione nel governo, mentre Repubblica c'è un'intervista a Bersani, il leader del PD, cambiamo assieme l'articolo 18, questo è il titolo di apertura. Le segnalazioni da cui voglio partire, la prima la troviamo sul Corriere della Sera, una storia raccontata da Gian Antonio Stella che racconta spesso spaccati di Italia, del nostro paese. Il titolo è La discarica costruita sulla frana, è lo strano caso di Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento. Dappertutto meno lì, avevano detto i geologi, perché c'è una frana in movimento, perché sotto c'è un fiume, perché i veleni sarebbero finiti in falda. E dove l'hanno messa la discarica? Proprio lì. Spesa prevista una decina di milioni, spesa reale, prima che i giudici dicessero basta, oltre il doppio allora è diventata la spesa. Prova provata che il pattume napoletano puzza due volte sotto il profilo olfattivo e sotto quello giudiziario. È un caso da manuale, quello di Sant'Arcangelo Trimonte, sulle alture appenniniche a pochi chilometri da Benevento. Vedi il posto e capisci come mai il business della spazzatura partenopea abbia arricchito un sacco di gente senza che il problema fosse risolto. È una lunga vicenda ricostruita da Gian Antonio Stella, un'intera pagina all'interno del Corriere, pagina 21. Tutto inizia nel 2007, quando, su richiesta del commissario per l'emergenza rifiuti, il presidente della provincia di Benevento, Carmine Nardone, incarica un gruppo di lavoro di trovare tra le cave dismesse una possibile discarica in grado di accogliere 300.000 metri cubi di pattume. Metterà a verbale il geologo Pietro De Paola. Le cave dismesse analizzate furono 18, delle quali numero 6 concludevano con un giudizio di idoneità positivo. Ma ecco che misteriosamente spunta fuori la 19ª scheda tecnica, che magica magia è allegata a una lettera del presidente provinciale del 9 maggio 2007, pur essendo datata il 22 maggio successivo. La scheda è stata fatta anche se il comune di Sant'Arcangelo Trimonte non risultava compreso tra i comuni oggetto di indagine. Da qui l'inizio dei misteri, geologi che dicono no, non va fatta lì. Quando in commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti il presidente Gaetano Pecorella chiede ma chi sono i proprietari dei terreni su cui si è fatta la discarica? Il procuratore risponde così. chiedo di procedere in seduta segreta. E il presidente Pecorella, allora, dispongo la disattivazione dell'impianto audio, dunque secretata quella parte per cui non si sa di chi sono i terreni. Sta di fatto che i geologi dicevano c'è una frana, Gian Antonio Stella dice basta venire qui per capire, è visibile la frana anche a occhio nudo, la discarica per Napoli costruita sulla frana e per questo i costi sono raddoppiati. Cosa dicevano i geologi? Fatela dovunque ma non lì, e lì è stata fatta. Questo Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Mentre, visto che noi avremo Irene Pivetti ospite alle 8:20 sulle polemiche per i presunti o reali privilegi degli ex presidenti della Camera, oggi il giornale a pagina 9 con Paolo Bracalini racconta Grand Hotel Montecitorio Barbato incastra i presidenti. Oh, c'è questo deputato Barbato dell'Italia dei Valori, Franco Barbato, che ha preso questa consuetudine di girare con telecamere nascoste nel bavero, nel doppio petto della giacca, nascoste in mano, e filma per denunciare, lui dice, la casta a cui appartiene lui stesso, essendo un parlamentare. Cioè, lui entra in zone che sono inaccessibili ai comuni mortali e sono accessibili solo ai parlamentari per filmare. Che cosa ha fatto? È entrato negli uffici, negli alti piani della Camera, dove ci sono gli uffici per gli ex parlamentari, presidenti della Camera. Ed ecco qui Paolo Bracalini sul giornale: il deputato pirata dell'Italia dei Valori è entrato alla Camera con una telecamera nascosta per svelare le stanze riservate agli ex presidenti. Per ognuno decine di lussuosi uffici, statue e mobili d'epoca. Non si dice quarto piano intanto, alla Camera, non si chiama quarto piano, ma Altana, è importante anche sapere i termini giusti. Gli ex presidenti della Camera hanno gli uffici nella Altana di Montecitorio. È qui che è riservato il mega ufficio del presidente Casini, 200 metri quadri, mobili d'epoca, statue classiche, travi a vista, corridoio di 15 metri che apre su 6 o 7 uffici e termina nella stanza di rappresentanza dell'ex terza carica dello Stato, ambiente intimo, quasi domestico, foto di famiglia sui tavolini di legno pregiato. Ma eccolo qui, Franco Barbato, neobrigante, così si definisce. Sono hotel a 5 stelle, resort di lusso più che uffici, e dentro ci ho trovato 2, 3 o anche 4 segretarie. Ecco, per esempio, in quello dell'ex leghista Irene Pivetti, che sarà nostra ospite, Barbato si è imbattuto in 2 segretarie che lavorano a tempo pieno per la Pivetti. Lei ci va per fare attività istituzionale, dice una delle 2 segretarie. Come ex presidente riceve molti inviti, molte mail, e quindi le servono 2 uffici. Accidenti, pensate tutti noi che gestiamo le mail con un BlackBerry e invece gli uffici per gestire le mail e gli inviti, no? E poi uno dice la tecnologia. E poi non so, entra per esempio nell'ufficio del presidente Luciano Violante. Ci sono le foto anche sul giornale, nei palazzi del potere, il privé di Pier Ferdinando Casini, fotografato l'immagine dalla telecamera nascosta di Barbato. La terrazza di Luciano Violante, appartamenti con mega terrazzo. Insomma, Grand Hotel Montecitorio, Barbato incastra i presidenti. Ci sono fotogrammi e resoconto sul giornale delle immagini rubate dall'onorevole Barbato nella zona dove ci sono gli uffici degli ex presidenti della Camera. E chiederemo tutto a Irene Pivetti tra meno di un'ora. Allora, di cosa parlano i giornali in questo lunedì? Soprattutto ancora di riforma del mercato del lavoro e dell'IMU, il giallo sull'IMU, la nuova ICI. A proposito di mercato del lavoro, registro 2 articoli. Il primo è un'intervista, che un colloquio più che altro, che Repubblica fa con il leader del PD, Pierluigi Bersani. Lo fa Claudio Tito in prima pagina di Repubblica. Cambiamo assieme l'articolo 18, questo è l'appello del segretario del PD, che dice: io vedo la possibilità di un punto di caduta condiviso in Parlamento, lo scenario di un incaponimento del governo non lo prendo nemmeno in considerazione. È un Bersani che apre perché dice in questo colloquio, che poi continua a pagina 6 e 7 di Repubblica, è una buona riforma se si corregge qualche aspetto. Il segretario dei democratici vuole aprire, insomma, tutti i possibili spiragli per evitare che il disegno di legge vada a impantanarsi nei corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama. Anzi, è sicuro che un'intesa sia vicina, basta ricorrere a un po' di senso di equilibrio. D'altronde, dice Bersani, è stata approvata salvo intese, dunque un modo per dire che va ancora approfondito e soprattutto elaborato qualcosa. Ovviamente il tema su cui si dibatte di più è quello dell'articolo 18. E Bersani insiste, va reinserito il termine del reintegro. Magari Monti dovrebbe subito immaginare un percorso che introduca e reintroduca in modo diretto o indiretto il reintegro in caso di licenziamento non giustificato dalle motivazioni economiche. Diamo al giudice, spiega Bersani, la possibilità di scegliere soltanto per quei casi tra due opzioni, il reintegro o l'indennizzo. Infine, una battuta anche sulla CGIL. Se ci fosse il niet della CGIL, noi abbiamo le nostre idee, non accetto da nessuno che si dica che siamo agli ordini del sindacato e noi quel testo lo voteremo. Dunque, un Bersani che tenta una mediazione sull'articolo 18, cambiamola insieme prima di maggio, non possiamo mandare all'aria la riforma. Messaggi concilianti che chissà, forse saranno già arrivati oltre là, nell'est, in fondo, geograficamente in Cina, dove Mario Monti è e dove rientrerà questa sera. Però sulla riforma del mercato del lavoro c'è un giallo, il famoso giallo degli esodati. La Repubblica definisce più che un giallo una gaffe del sottosegretario Polillo, che non è nuovo peraltro a fare dichiarazioni che poi, sottosegretario all'economia, che poi vengono smentite dagli membri dello stesso governo. La nuova dichiarazione che ha fatto scalpore è questa. Polillo, l'abbiamo sentito anche in GR24, rispondendo ieri sulla 7 a una domanda di un esodato, uno di questi lavoratori che hanno fatto un accordo e si trovano a dover affrontare anni senza lavoro e senza pensioni, perché nel frattempo è stato aumentato l'età per ottenere la pensione. Rispondendo a uno di questi lavoratori ha detto: ma lei faccia causa e vedrà che potrà riottenere il suo posto di lavoro. E il ministro dell'economia, le assicuro, non si opporrà a questo. Cioè ha fatto capire il sottosegretario Polillo: esodati, potrete riavere il posto di lavoro per completare gli anni in attesa della pensione. È scoppiato un putiferio. È intervenuto anche con una nota ufficiale il ministro Elsa Fornero a dire praticamente: se il sottosegretario Polillo ha una buona ricetta per risolvere il problema degli esodati, se ne faccia carico personalmente. Quindi proprio una sconfessione in piena regola. Polillo che dice gli esodati saranno reintegrati nelle aziende, e il ministro Fornero che smentisce dicendo non è assolutamente così. Ecco, questo è per dire il caos che regna. Qualcuno è anche sospettoso in questa uscita del sottosegretario Polillo, perché si fa notare da più parti, per esempio sul Corriere della Sera, che Polillo è un fedelissimo di Fabrizio Scicchitto, e allora ci si chiede perché proprio in questo momento se ne è uscito con questa frase che ha creato questa diatriba all'interno del governo e questo pasticcio anche di comunicazione. Gli esodati possono tornare al posto di lavoro? No, non è vero, nel giro di poche ore. Pasticcio per pasticcio, lasciando la riforma del mercato del lavoro, uno dei pasticci del giorno certamente è quello sull'acronimo dell'IMU, vale a dire l'ex ICI. Quanto si paga per l'IMU non si sa, è caos. Questo il dato di fatto certo. L'unica certezza è questo, che c'è un caos al momento per quel che riguarda l'IMU, che arriverà a scadenza il 16 giugno, scade la prima rata. Leggo da pagina 8 del Corriere della Sera: si sa che si deve pagare e che si deve pagare parecchio di più rispetto a quanto si pagava prima che fosse abolita, ma come si deve pagare, soprattutto quanto, questo ancora non si sa. La stangata IMU, vale a dire la nuova ICI del governo Monti, che arriverà a scadenza il 16 giugno, termine entro il quale va versata la prima rata, cozza contro il fatto che solo il 6% dei comuni ha deliberato la nuova aliquota, mentre tutti gli altri avranno comunque tempo per farlo fino al 30 settembre, se passerà un emendamento presentato dai relatori del disegno legge fiscale in Senato. E dunque ieri i centri di assistenza fiscale, che aiutano ben 17 milioni di italiani ogni anno a fare i 7,30, hanno lanciato un allarme. Non si capirà nulla, non si riuscirà a pagare, sicuramente la data del 16 giugno non verrà rispettata perché ci sarà un caos, e dunque è il caso di rinviare il pagamento dell'IMU. I CAF, rischio caos, rinviare l'IMU, e su questo aprono anche vari quotidiani, e pasticcio IMU è il titolo dell'Unità per l'appunto, il Giornale invece: il fisco è ubriaco, non bastano le tasse più alte d'Europa, anche pagarle è un problema, nessuno sa come calcolare la nuova imposta sulla casa. E tra l'altro il Giornale intervista a pagina 2 Corrado Sforza Fogliani, che è il presidente nazionale di Confedilizia, che dice: torniamo all'ICI, si pagherebbe meno e con zero burocrazia, l'IMU strangola il mercato del mattone, torniamo a un modello stile vecchia ICI, quando erano i comuni a decidere le aliquote. Il difetto dell'IMU è quello di essere un'imposta a filosofia espropriativa, che prescinde dal reddito che il bene produce. È una filosofia espropriativa perché quando il reddito che si riceve dal bene non è più sufficiente a pagare l'imposta, e quindi raggiunge un effetto espropriativo, come se perdessimo il valore delle case, chiede Fabrizio Brioschi del Giornale. Ebbene sì, praticamente è così, il fatto è che l'IMU è smodatamente alto, una tassa patrimoniale non può colpire il bene più del reddito che il bene stesso produce. Ma insomma, su questo anche sul Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, il prelievo sugli immobili, troverete tutti i dettagli. L'IMU cerca gli ultimi ritocchi, ci sono Cristiano Dell'Oste e Luigi Lovecchio che raccontano anche che c'è il giallo per esempio sul dossier non ancora chiuso. Per esempio gli agricoltori, i proprietari di case sono in tanti a poter sperare di inserire qualche altra correzione in questo emendamento al decreto fiscale messo a punto dai relatori Mario Baldassarri e Antonio Azzollini, che riguarda appunto gli immobili agricoli, per esempio le stalle, i terreni, le case affittate. Insomma, è un dossier ancora aperto, totalmente aperto, e dunque difficilmente i CAF fanno sapere se rispetterà la scadenza del 16 giugno. Mentre dal punto di vista del fisco, giusto per... oggi è un lunedì mattina, insomma, dove i giornali sono un po' pesanti da questo punto di vista, IMU, ICI, tasse... No, ci manca la benzina, ci manca un dossier sulla benzina. Sul fisco, oggi c'è una novità importante, come titola in prima pagina del Sole 24 Ore, perché da oggi cambiano i ricorsi, da oggi cambiano le regole per ricorrere contro gli accertamenti del fisco. Non si potrà più andare direttamente dal giudice tributario per impugnare un atto emesso dall'Agenzia delle Entrate se l'importo contestato non supera i 20.000 euro. Dunque, per tutte le contestazioni sotto i 20.000 euro ci sarà un nuovo meccanismo di reclamo che potrà contenere anche una proposta di mediazione, questo per cercare di tagliare di 4 liti su 10 tra quelle che ogni anno vengono avviate nei tribunali del fisco. Ci sono tutti i dettagli che trovate a pagina 3 con Marco Mobili e Giovanni Parente. La mediazione può tagliare 4 liti su 10, l'obiettivo dunque è arrivare a un taglio del 40% delle liti con il fisco. Da oggi, insomma, c'è il reclamo obbligatorio contro gli atti del fisco per frenare le nuove controversie. I dettagli appunto li trovate sul Sole 24 Ore, e intanto che facciamo? Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi andremo a ascoltare qualcosa anche che proviene dall'estero di notizia, subito dopo e tra poco. La notizia che proviene dall'estero più interessante proviene dalla Birmania. È una giornata storica quella di ieri in Birmania, dove il premio Nobel Aung San Suu Kyi, 66 anni, di fatto è stata eletta e potrà sedere in Parlamento e guidare dunque il movimento democratico dopo anni passati agli arresti. Ci sono le foto di migliaia di suoi concittadini che si sono raccolti a Rangoon, nella capitale, per festeggiare davanti alla sede del partito. E tra l'altro sia Corriere della Sera che Repubblica non aprono come titolo d'apertura, ma dedicano pagina 2 e 3 a questa vicenda. Vi segnalo per esempio su Repubblica l'interessante reportage da Bangkok di Raimondo Bultrini, che racconta: l'alba della nuova era birmana è un borgo polveroso di capanne chiamato Wan Tin Ka, il villaggio dei bambù. Del bambù tagliato e venduto vivono le famiglie, di bambù sono fatte quasi tutte le case, germogli di bambù nutrono bambini e vecchi. Qui il 99% dei contadini, tra i poveri dell'Unione, spesso malnutriti, ha votato per Aung San Suu Kyi, Madre Speranza, la leader dell'opposizione. Non è difficile immaginare perché, dopo mezzo secolo di dittatura e di abbandono del popolo a se stesso. È un clamoroso plebiscito per la Ledi, perfino nel cuore del potere politico e militare degli ex generali di governo. E tra l'altro vi segnalo anche Paolo Giordano, lo scrittore, che a pagina 3 del Corriere della Sera fa un'intera pagina: così una donna minuta e gentile si è fatta mito per salvare un popolo. Racconta Giordano: la nostra mente non è strutturata per accogliere i drammi collettivi. Quando le si para davanti l'onda gigantesca della sofferenza di un popolo, innalza subito una barriera protettiva. Il solo modo in cui quel dolore può intrufolarsi è attraverso la storia di un singolo individuo, meglio ancora se veicolata da un'opera d'arte, una canzone, un romanzo, un film, che abbia una narrazione leggera. Aung San Suu Kyi questo lo ha sempre saputo e ha offerto se stessa come materiale vivente per quei racconti. Ha accettato di marcire dentro la stessa casa per 15 anni, lontana dal marito, i figli, inchiodata alla punizione peggiore per un attivista, l'inazione, solamente per continuare a esserci. È il lumicino tenace che rischiara da oltre 20 anni la Birmania per noi. Attraverso il suo sguardo fiero, amorevole, siamo in grado di vedere un'intera nazione che altrimenti sprofonderebbe nel buio. Mi accorgo, mentre scrivo di lei, che il tono delle frasi vira verso il celebrativo. Non ci sono abituato. Di solito mi affretto a corrompere tutto ciò che ha il profumo dell'ideale con un po' di crudo realismo puzzolente. Ma con Aung San Suu Kyi non ci riesco. Desidero con tutte le forze mantenere intatto il mito che rappresenta, come un punto all'infinito a cui tendere, una perfezione asintotica fatta di coraggio e lealtà e purezza. Voglio mantenere la fede un po' idiota che il suo successo in queste elezioni sia la panacea per la Birmania, e dimenticarmi che la realtà di un paese è molto più complessa di così, che ci saranno tensioni, lentezze, recrudescenze e altro sangue, forse. Insomma, Paolo Giordano racconta la parabola, questa volta in crescendo. Certo, è un giorno storico e la potete vedere anche nelle foto di Aung San Suu Kyi, che dopo anni di arresti domiciliari, leader dell'opposizione birmana, per messa a tacere per anni, insomma è stata eletta in Parlamento come leader dell'opposizione. Io, come detto, mi occuperò alle 8:30 di questa vicenda, una vicenda che è partita dalla Francia ma che in Italia si sta come una valanga montante anche nell'opinione pubblica, sta crescendo, tanto che il ministro dell'istruzione Profumo è dovuto intervenire anche sulla questione dei compiti a casa. Quanti ragazzi, quanti studenti passano ore e ore facendo compiti a casa dopo essere stati sui banchi di scuola per ore e ore? Ebbene, in Francia da oggi parte uno sciopero dei genitori. La principale associazione dei genitori ha detto: per 15 giorni faremo lo sciopero dei compiti a casa. I compiti a casa, doveri e valori. Questo è il titolo dell'editoriale di Giorgio Israel in prima pagina del Messaggero. È un editoriale in difesa dello studio. Israel, studioso, docente e si occupa di scuola, difende invece l'importanza dei compiti a casa, quelli che hanno costretto e costringono genitori a passare weekend a dire: non possiamo andare via, non possiamo fare una gita, dobbiamo aiutare il figlio o la figlia a fare i compiti a casa. Quanti genitori sento dire questa frase? Ebbene, Giorgio Israel, in prima pagina del Messaggero: la scuola non è soltanto il luogo dove si acquisiscono le conoscenze e le capacità adatte a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma anche il luogo in cui si acquisisce l'attitudine a lavorare, che significa anche o soprattutto impegno, sforzo. sacrificio. La scuola ha sempre avuto la funzione di fornire tale allenamento, che è rappresentato non soltanto dalle ore passate con l'insegnante e i compagni di classe, ma dal lavoro a casa, in cui ci si confronta individualmente, faccia a faccia con se stessi, con i risultati del lavoro fatto. È qualcosa che non soltanto stimola il senso di responsabilità, addestra lo sforzo inerente a qualsiasi attività lavorativa, ma è la via maestra per realizzare l'obiettivo tanto proclamato dai pedagogisti moderni, la capacità di saper fare, di applicare le nozioni apprese, che non si stimola e non si verifica nelle attività collettive che spesso nascondono le magagne in un calderone indistinto. Di qui il ruolo dei compiti a casa, di cui tanto si discute. Insomma, per Giorgio Israel sono un modo per mettere subito alla prova con il sacrificio, la voglia di lavorare. E tra l'altro fa un paragone con il governo Monti. Dice Israel: ci sentiamo ripetere tutti i giorni che per superare la crisi, far ripartire il paese, ci vuole la capacità di fare i sacrifici, e allora che gli studenti imparino fin da subito l'importanza di fare sacrifici anche con i compiti a casa. Come la pensate? Ne parleremo alle 8.30. Che faccio? Devo concludere con il calcio? Sì. Intanto è morto Giorgio Chinaglia, e trovate sul Messaggero, per esempio, due o tre pagine su Long John Chinaglia. Per quel che riguarda il calcio giocato, Juve cuore Vidal, questo è il titolo della Gazzetta. Insomma, la situazione è questa: più due per il Milan, tutto è più due punti, più due gol fantasma, cioè tutto più due, questo al momento in campionato. Juve cuore Vidal è il titolo della Gazzetta. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci, sono le 8:21 minuti. Allora, voglio salutare Irene Pivetti, ex presidente della Camera. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, sono qua. Eccoci qua. Allora, lei sa che adesso sarà sotto un fuoco di fila di domande, perché è una della casta o ex della casta. Sì, certo, è evidentissimo, infatti, che lo sono. È così evidente dai risultati e dalle scelte che vengono fatte dalla casta medesima. Dalla casta. Oggi il giornale fa questa operazione, conosce il deputato Barbato dell'Italia dei Valori, quello che si mette le telecamere nascoste, è andato nella Altana, perché io ho scoperto che si chiama così, cioè il quarto piano, e ha fatto vedere gli uffici, anche gli uffici con le segretarie che lavorano per lei, quale ex presidente della Camera. Ma cosa sto dicendo? Quello lì è l'ufficio di Casini. C'è l'ufficio di Casini, no, dice anche due segretarie dell'ufficio. Ma per niente, l'ufficio sta a Palazzo Marini, in via del Pozzetto 105, dove stanno tutti gli uffici degli ex parlamentari. Però dice Barbato, leggo qua, si è imbattuto anche in due segretarie che lavorano a tempo pieno per la Pivetti. Ma non è vero, è un bugiardo, non è vero, è un bugiardo. Non hanno mai, io non ho mai avuto un ufficio lì per pochi mesi dopo la... il mandato di presidente, ma fin da quando ero parlamentare in carica, io lì l'ufficio l'ho avuto 20 giorni forse. Quello è matto. No, non è che è matto, è bugiardo. È bugiardo. Senta, allora Sul serio, adesso non lo metto in dubbio, perché io sono lì da 15 anni. Quanti anni sono? Mi sto al Palazzo Marini, non scherziamo. Allora, la questione è questa: sono stati tagliati i benefit per gli ex presidenti della Camera, ma non per tutti. Per lei sì, per Ingrao sì, per altri però no. Su questa strada il benefit. Guarda, io vorrei soltanto precisare che io non godo di nessun altro benefit. Io continuo a leggere sui giornali macchina, rimborsi viaggi eccetera. Io sono in questo momento alla stazione Termini a cambiare un biglietto che mi sto pagando con i miei soldi, come pago con i miei soldi tutti i biglietti di treno e di mezzi di trasporto da sempre. Ecco, ci dica qua, perché facciamo un po' di chiarezza su questi io non ce l'ho quel benefit, per esempio, non ho altri benefit. Per esempio l'auto blu ce l'ha? Non l'ho mai avuta, mai usata. Io ho solamente, e non mi piace considerarlo un benefit, perché ho rispetto per le persone, trovo offensivo chiamarlo benefit. Io ho delle persone che lavorano assegnate alla mia segreteria e io mi sto arrabbiando molto, perché quelle sono persone che ci vivono di questi soldi e giustamente io dico: non li volete assegnare a me, io ci rinuncio. Non è giusto, ma ci rinuncio, però salvate i loro posti di lavoro. Cioè lei ne fa la battaglia per difendere i posti di lavoro delle persone assegnate. Mi rifiuto di considerarli benefit, perché io non considero una persona un benefit di un'altra persona. Qualcheduno in malafede ha detto: questa li paragona ai servi della gleba. No, loro li paragonano ai servi della gleba. Io ho detto: è ingiusto trattare la gente come se fossero dei servi della gleba. Questo è una cosa scandalosa, guardi. Sono dei giorni che io sto leggendo menzogne, tra l'altro su di me, ma non ha importanza, ma menzogne su questa storia. Io sono indignata, perché ci sono delle famiglie che vengono messe in mezzo alla strada soltanto perché c'è qualcuno che vuol farsi bello. Facciano quello che vogliono, ma quei soldi loro non mettono della gente che guadagna 600-800 euro al mese, non mi sembra che sia una cifra astronomica, qualcuno guadagna anche 1000. Perché qualcuno deve far finta che il bilancio dello Stato viene rifatto. Cioè questo guadagnano le segretarie assegnate al suo ufficio. Sì, perché il punto è questo, c'è una cifra, non c'è un numero di persone, c'è un gruzzolettino. E noi l'abbiamo fatto a fettine molto sottili per poter venire incontro a più persone. E questi con uno spirito, come dire, generoso, di solidarietà, sono d'accordo su questa cosa. Lei tra l'altro ha anche detto, in quegli uffici gestiscono una onlus che lei ha messo in piedi. È vero. Ecco, però meritorio il... Però per qualcuno dice sono gestiti con soldi dello Stato, vero, cioè questa onlus è gestita soldi dello Stato. Io le dico questo, io non sapevo nemmeno di avere diritto a una segreteria, sapevo di avere una segretaria. Quando ho scoperto che non era una segretaria solo per mio uso personale, ma c'era la possibilità di avere di più, ho detto benissimo, diamo un uso pubblico a questa roba. Visto che esistono queste risorse a disposizione, usiamole per far del bene. Naturalmente qualcuno può anche non essere d'accordo, per l'amor di Dio, però non c'è scritto questo nell'assegnazione del personale. Io rivendico il fatto che potevo in teoria tenerli lì a giocare a carte tutto il tempo e invece ho pensato facciamone un uso utile. Dopodiché qualcuno ritiene che non sia utile avere una onlus, per l'amor di Dio ci sarà qualcun altro che mi darà una mano, io qualche donatore ce l'ho che mi aiuta a sostenere questo peso economico. E vuol dire che la Camera dei Deputati ha deciso che non gliene importa niente di questa attività, ma io non sto a sindacare, perché lo scopo della Camera è fare le leggi, però allora faccia anche delle cose giuste. Allora quello che io chiedo è che queste persone vengano stabilizzate nello stipendio, tolte da me, va bene, però salviamo loro. Ma certamente. Senta, invece guarda che non mi fermo mica, perché ma è chiaro, io noi la sentiamo molto appassionata e indignata, ha detto. Ma io non c'entro, io non voglio niente per me, come non ho avuto niente. Io avevo soltanto la disponibilità di usare del denaro per far lavorare della gente, lei non lo avrebbe fatto. Io con la crisi di lavoro che c'è, quando so che ci sono dei denari messi accantonati in bilancio per dar del lavoro della gente, io mi invento un lavoro per farli lavorare, e come se lo faccio? E vado avanti a farli finché ho la forza. Senta, invece se anche arrabbiata ha definito il gesto di Casini che ha rifiutato a questi. Perché Casini, se era veramente contrario, i suoi votavano contro, è semplice. Cioè, mi pare che Casini faccia politica, mi pare che Casini abbia un partito, mi pare che questo partito abbia dei parlamentari che stanno anche in ufficio di presidenza. I suoi hanno votato a favore, è inutile che gli faccia il bel gesto. Un bel gesto e basta. Invece è vero che ha cercato Fini al telefono? Sì, sì, è vero. Cioè ha chiamato Fini e non è riuscito, si è negato. Certo, è vero, tutto il giorno. E come mai? Perché non lo cioè, so. Chi le avrebbe detto a Fini? Esattamente questo. Avete fatto una cosa ingiusta, comunque io non ho mai chiesto niente per me, continuo a non chiederlo, ma di questa gente vi dovete fare carico. Vabbè, magari verranno... Ma magari un corno, guardi, faremo un ricorso, quindi questo glielo posso... A lei fa ricorso contro... No, io no, non lo faccio io, lo faranno loro, adesso verrà... Beh, è una delibera dell'ufficio di presidenza della Camera, cioè chi può fare ricorso? Io lo so perché io sono stata un tempo presidente di quella Camera e conosco bene i precedenti, e quindi ho dato suggerimento a queste persone di rivendicare per se stesse un diritto. Cioè questo ricorso è contro questa delibera, il che vorrebbe dire salvare il loro posto di lavoro, e va bene, però vorrebbe dire anche togliere questa delibera. No, non è contro questa delibera, assolutamente. È un'altra cosa che tra poche ore io comunicherò. Lo dica prima qui. No, perché intanto lo facciamo firmare. Comunque non è contro questa delibera, ma è contro questi effetti, senz'altro. È per salvare questa gente, solo per salvare questa gente, ribadisco, io non ho mai avuto niente e continuerò a non avere niente, non chiedo per me niente, mi pago tutto quello che mi devo pagare come ho sempre fatto e non voglio assolutamente niente, però io non posso permettere di veder mettere della gente in mezzo alla strada senza usare tutte le armi di cui dispongo, compresa l'intelligenza, anche se qualcuno pensa che sia diventato un oggetto supplementare di questi tempi, perché conta solo la prepotenza. Bene, c'è anche qualcuno che sa usare la testa. Quindi lei ha consigliato a queste segretarie, diciamo, di fare ricorso, questo possiamo dire, di fare ricorso contro gli effetti di questa delibera dell'ufficio di presidenza. Io voglio salvare questi posti di lavoro e li salverò. Senta, che ne pensa di questa, cos'è la campagna anticasta, che poi in realtà è tornata, perché per un attimo era finita, adesso sembra tornare, sembra montare nuovamente. È una moda dove gente che se ne stacca tutto si fa bello facendo finta di fare il giustiziere, ma per piacere. Io niente, lasciamo andare, ma non ho particolare stima dei qualunquisti che individuano un bersaglio e ci sparano sopra senza ragionare, senza informarsi, o peggio ancora, sapendo benissimo come stanno le cose, raccontando. Ma lei, però, come ex rappresentante della politica, si sente una privilegiata o no? guardi, io le invito veramente, sì, seriamente, non lo dico per modo di dire, lei mi venga presso una giornata, dopodiché me lo dice lei se sono una privilegiata. Va bene, no, io non ho nessun problema, perché tra l'altro mi piace molto, sono perfettamente trasparente da tutti i punti di vista, poi me lo verrà a dire lei, o me lo verrà a dire chiunque, può starmi accanto una giornata, sì, io sono una privilegiata oppure no. Perché lei... Io sono una privilegiata di questi tempi, perché siccome grazie a Dio ho un lavoro, riesco con le mie consulenze a mantenere me stessa e la ONLUS, in questo senso ho un lavoro e sono una privilegiata in un'epoca di disoccupazione. Sì, di questi tempi è già, ecco, è già molto. Però dalla politica lei ha detto io non ricevo più nulla, nel senso mai che non hai avuto nulla, vabbè, a parte lo stipendio. E ma ovviamente, ma io dal 2001, quando ho cessato di essere membro del Parlamento, dal 2001 siamo, sì, nel 2012. Non prende più. E, no, prenderà, e prenderà invece la pensione o il vitalizio quando? Tra 12 anni, come è noto. Tra 12 anni, un vitalizio? Cioè, tra 12 anni, se poi non me lo spostano ancora. Si sa, visti te. Vitalizio che sarà di quanto, lo sa già? No, non lo so. Non lo sa. Ma vabbè, possiamo immaginarlo, cos'è? 3.000, 4.000 euro al mese? Sarà una roba così, però tanto io ho pagato dei contributi in proporzione, non è che io ho pagato 15 giorni, ho pagato 15 anni di contributi per avere molto alti, devo dire la verità, molto alti. Va bene, ma io non ho fatto mai obiezioni su questa storia, che pure ritengo non giusta, ma non ho mai fatto obiezioni, perché quella riguarda me. E io, finché il Signore mi dà la possibilità di lavorare, non chiedo niente, non faccio obiezioni su questo. Io mi imbufalisco quando si colpiscono delle persone che non c'entrano niente. Per me stessa non mi interessa, io viaggio, guardi, cioè, l'ho detto, ma non è che è un modo di dire, c'ho la testa alta che vado a controllare e faccio viaggio con i mezzi, non possiedo un'automobile, trolli, cioè, controllate queste cose. Ma perché non ha l'auto blu, visto che ce l'hanno gli ex presidenti? Cioè, ha rinunciato lei o perché è in dotazione? A me sembrava una cosa, quello perché mi sembrava un privilegio, dico, ma perché? Quindi ha rinunciato perché è in dotazione, voglio dire. Io non lo so, all'inizio mi sono detto se volevo l'auto di servizio, ho detto no, perché io non sono più presidente. Dopodiché, se le norme sono cambiate o non sono cambiate, io ho cessato di essere presidente nel 96, sì, ed essere parlamentare nel 2001. Allora io avevo la scorta, nel 97, dopo un anno, cioè come è di norma, mi è stata tolta la scorta, fine della storia, io viaggio con i miei mezzi. Vabbè, c'è una notizia, c'è un'auto blu che cresce e sarà lì alla Camera. Ma non solo un'auto blu, tutto il resto, sì, cresce, certo. Perché io, ripeto, ho avuto sempre soltanto, non sempre, perché da un certo momento in avanti ho scoperto che esisteva questa possibilità e ho costituito una segreteria per usare questi fondi, punto. In ogni caso, lei ha detto li salverò, vedremo come va a finire questa vicenda. Intanto la ringrazio per essere stata con noi. Ringrazio lei. Grazie, la lasciamo al biglietto. La lasciamo al biglietto da cambiare alla stazione Termini. Irene Pivetti, grazie, ex presidente della Camera. Allora, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità del meteo, poi parleremo di un tema popolare, se volete, di cronaca, perché coinvolge molti, molti genitori. Forse avete passato il weekend a fare i compiti, una parte del weekend, i compiti dei vostri figli, insieme ai vostri figli. Sappiate che in Francia c'è un movimento di genitori che proclama da oggi 15 giorni di sciopero dei compiti, perché non se ne può più. Dicono, la scuola faccia la scuola, e quindi se si va a scuola 8 ore o 6 ore al giorno, quello che è, si stia lì a scuola e si faccia lì la scuola, non che si debba venire a casa a fare compiti su compiti. Che ne pensate? Lo sciopero dei compiti in classe tra poco, 800 24 00 24. 24 mattino. Allora, alle 8:36 minuti ci sono sicuramente un gruppo nutrito di genitori che avranno passato il weekend passando anche un po' di tempo, spendendo un po' di tempo aiutando i propri figli a fare i compiti per la scuola, per presentarsi oggi con i compiti fatti all'inizio della settimana. Allora, sappiate che in Francia inizia da oggi uno sciopero di 15 giorni dalla più importante associazione di genitori, che vuole dare un freno, mettere un freno a questa che viene definita un'usanza malsana della scuola di riversare di compiti da fare a casa i propri alunni. Che ne pensate? I compiti a casa, è giusto abolirli? Qualcuno addirittura si è spinto a questo livello. Ne vogliamo discutere con il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria, che saluto. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, il tema è molto dibattuto. La sta ascoltando e la saluta anche Cristina Petit, che è un'insegnante di scuola primaria a Bologna. Buongiorno e benvenuta, professoressa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È autrice voce di un blogger, Maestra Piccola, che è diventato anche poi un libro. Allora, sottosegretario, intanto le chiedo questo: i compiti a casa come devono essere visti? Oggi su questo tema Giorgio Israel ne discute, ne scrive un editoriale in prima pagina del Messaggero, a dire è il paese in cui ci chiedono i sacrifici a tutti i livelli, anche a livello governativo, e quindi è giusto che anche i ragazzi o ragazzini imparino fin da subito il senso del sacrificio, e quindi sì ai compiti a casa. Lei cosa ne pensa, sottosegretario? Ma io ne penso che ho fatto il maestro elementare per 30 anni e certe volte li ho dati i compiti, altre volte no, e dipende da molte variabili. Una cosa è certa, che devono essere compiti che i bambini e le bambine possono fare da soli, e i genitori dovrebbero essere in grado di fare un passo indietro, e gli insegnanti e la scuola dovrebbero fare dei compiti che sono il completamento di un lavoro, se si devono fare. In altri momenti non è detto che si debbano fare i compiti, si possono raccontare cose belle, apprendimenti interessanti, importanti, che si fanno fuori dalla scuola quando si ritorna a scuola dopo il weekend. E comunque oggi si impara un po' dappertutto. Ci sono dei nuovi media, è una grande rivoluzione, e quello che si impara fuori dalla scuola, la scuola deve aiutare i ragazzi insieme in gruppi, lo ha detto anche il ministro, a rielaborare le cose. Dopodiché ci sono dei momenti in cui bisogna finire dei lavori, bisogna allenare alla concentrazione, al lavoro, ad ultimare anche formalmente bene le cose, perché no, ci si può organizzare, e si chiede di fare non un sacrificio, sì, di completare le cose, che è un grande valore educativo che si impara presto nella vita. Quindi però... io sarei per un approccio, diciamo, molto, molto aperto. Ci sono valori educativi, imparare a far bene le cose, fare anche un po' di sforzo, di concentrazione anche fuori dalla scuola, riportare quello che si impara fuori dalla scuola a scuola, fare anche i compiti, farli bene, ma sì, perché li sai far da soli, non perché hai bisogno di mamma e papà. Senta, ma non c'è secondo lei la tendenza, per carità, senza voler generalizzare, a volte di dare i compiti a casa perché la scuola non riesce a fare nelle ore a cui è deputata per quel che riguarda l'organizzazione della giornata di un ragazzo e una ragazza, non è deputata a fare tutto, e quindi per scaricare un po' la coscienza di molti insegnanti, di vabbè, fai i compiti a casa, quello che non sono riuscito a spiegare. Ma sono due funzioni diverse, la funzione del nuovo argomento, dello studio insieme, dell'organizzazione, dell'approccio appunto a temi nuovi, ad argomenti nuovi, a riflessioni nuove, a procedure nuove, si fa a scuola. L'esercitazione si fa a scuola, ma in certi casi si può anche fare altrove. Io non ho un atteggiamento religioso verso una cosa o verso l'altra, dico che sono due funzioni diverse. E certo che se non spieghi e dici leggete da pagina tot a pagina tot a casa, impari da solo, questa è una cosa che non va. Perché sa, molti genitori dicono, lo so che forse nella frase in sé c'è una piccola verità e anche una piccola banalità o grande banalità: la scuola faccia la scuola, o meglio la scuola si fa a scuola, visto che si sta otto ore a volte col tempo. Facciano i genitori non gli insegnanti. Cioè anche i genitori devono quindi prendere parte al processo educativo, no? Esatto, ci sono funzioni distinte, una buona alleanza tra adulti, tra genitori da una parte, scuola dall'altra. Se i genitori vogliono fare gli insegnanti vogliono fare i genitori, siamo messi male. Quindi... io penso che nelle scuole italiane però questo si stia iniziando ad apprendere, io non la vedo così male. Io capisco una cosa però, e questo è un punto nuovo, importante. Se ai tempi miei davi una versione di greco e latino da fare a casa, oppure un esercizio di matematica, facevi, era difficile trovare, diciamo, quella versione o addirittura quel modello o molto simile di matematica in linea in un nanosecondo come avviene adesso. Sì. E quindi questa idea del controllo attraverso i compiti, questa è un'idea secondo me che va tramontando. Bisogna capire se invece anche fuori dalla scuola si possano organizzare in un tempo che sta a cavallo tra scuola e fuori i completamenti dei lavori, gli approfondimenti, purché sia la scuola che abbia nelle sue mani una competenza di rigore, di riqualificazione delle tante informazioni, ripeto, che ormai stanno dappertutto e non solo a scuola. E no, infatti uno con un click può ottenere, come diceva anche il ministro Profumo, la traduzione di latino a casa, con un click al computer basta mettere le tre parole chiave e magari esce fuori. Intanto appunto, insieme al sottosegretario all'istruzione Marco Rossidoria, che è stato anche insegnante, come ci ha detto, come forse sapete, per 30 anni alle scuole elementari, vorrei andare da Cristina Petit, prima anche, ci sono anche tanti ascoltatori ovviamente, vorrei sentire i genitori, soprattutto le mamme, perché ecco, non è che i papà se ne lavino le mani, però magari sono le mamme soprattutto che devono fare i compiti a casa. Che ne pensa Cristina Petit? Cioè, Allora, io brevemente proprio dico quello che penso. Sì. La mia opinione si riferisce intanto alla scuola primaria, che è completamente diversa dalla scuola secondaria, che ha tutto un altro, chiaro, anche monte orario. La scuola primaria e al monte orario, al modulo di 40 ore settimanali, perché secondo me le 27, le 30, le 32 sono un po' un altro discorso. Le 40 ore settimanali che ci avvicinano al discorso francese, perché i francesi vanno, tutti i bambini francesi vanno a scuola 8 ore al giorno, ecco, io penso che i bimbi che frequentano per 40 ore una scuola e quindi 8 ore al giorno, sì, come un qualsiasi operaio, impiegato statale, più di me perché io non lavoro 40 ore, io credo che sabato e domenica non debbano fare i compiti, perché in 40 ore settimanali c'è assolutamente il tempo per fare quello studio individuale in cui io credo tantissimo, come diceva il sottosegretario, è importantissimo e determinante per l'apprendimento. Questo viene svolto a scuola con l'insegnante che è lì e che li sostiene, e i bimbi fanno il lavoro. Perfetto. Individuale. Quindi se uno fa 8 ore è come, ecco, basta, finisce, va in piscina, va a divertirsi, va a leggere un libro, fa un'altra cosa, no? Quindi questo è il primo, il tempo pieno escluderebbe per lei la necessità dei compiti a casa. Perché se c'è il tempo per fare a scuola in 40 ore e chi non lo trova si deve un po' chiedere dov'è che può trovarlo, perché si deve trovare il tempo per poter fare questa cosa. Così però i genitori non perdono anche un po' il controllo che è necessario, giusto e legittimo, cioè se non diventa un dover fare i compiti, no, guardi, al posto del figlio, della figlia, però è importante che i genitori sappiano, certo, anche, no? Prendano, certo, in mano i quaderni. Ma riescono a prenderli in mano lo stesso guardando, e possono ascoltare per esempio tutta la parte orale. Ecco, ascoltare una parte orale di un bimbo che ti ripete la storia, la geografia e le scienze è molto diverso fra fare dei compiti scritti nel weekend. Quindi secondo me il supporto orale, che c'è un gran bisogno di essere ascoltati e hanno molto bisogno di esprimersi e di imparare a parlare bene i bimbi, ecco, quello i genitori lo possono, anzi è una bella cosa, è anche divertente, piacevole, la puoi fare in macchina, la puoi fare, ti racconti i sumeri, ti racconto il ciclo dell'acqua, ecco, quelle sono cose che racconto i sumeri, è bellissima questa, pensa che bel viaggio in macchina, spegni la radio papà, ti racconto i sumeri, no, è bellissimo. Allora, con il sottosegretario all'istruzione Marco Rossidoria e con Cristina Petit, insegnante di scuola primaria a Bologna e blogger, stiamo discutendo della protesta che è nata in Francia, di genitori che dicono basta i compiti a casa per i nostri figli. Vorrei sentire all'800 24 00 24, ci hanno chiamato e ci stanno chiamando in tanti, Anna Maria da Firenze, buongiorno. Buongiorno, io sono stata insegnante, sì, e c'è un però, io sono per i compiti a casa, per una rielaborazione individuale, quindi più responsabile di ciò che si è preso a scuola, ma toglierai tutti i compiti durante tutte le vacanze, perché il ragazzo deve 3 mesi di assoluta libertà, si apprende molto bene a scuola, si ha il tempo di rielaborare a casa, e sia i ragazzi hanno diritto di una maggiore fruizione del loro tempo libero con la famiglia, perché fra padri e figli No, lei dice bene, va bene, i compiti a casa ma non durante le vacanze. Grazie Anna Maria. Giorgio dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Sì, Giorgio. Grazie per avermi chiamato. Io sono appunto un ex e non ex insegnante, do lezioni di latino a dei ragazzi qui a tempo perso, io ho 76 anni, ma non riesco a capire questa storia di togliere possibilità a questi ragazzi di studiare il pomeriggio e fortificarsi in questa maniera, che faranno quando andranno all'università? Io mi chiedo questo, all'università non avranno, si trovano di fronte a un mondo completamente differente da quello che è la scuola e come insegna la scuola, dovranno fare da soli e quindi se non imparano adesso a fare da soli e non imparano ad essere lontani dai genitori, perché i genitori purtroppo insistono per stare vicini ai bambini e ai ragazzi a casa e fare loro i compiti. A volte è quello, a volte è quello, li fanno loro e poi dopo dicono ecco l'ennesimo weekend in cui ho passato il tempo a fare i compiti con mio figlio. Ecco perché protestano poi, perché devono farli loro. È chiaro. Sono i ragazzi che lo devono fare e questa è la cosa. No, infatti quello che diceva il sottosegretario prima è questo, cioè l'importante è che li facciano, sottosegretario Rossi Doria, e l'importante è questo, cioè che imparino a farli in autonomia questo. Ma lei la capisce un po' la protesta di questi genitori in Francia, che anche in Italia sta prendendo un po' piede? Oppure sono dei genitori stressati che pensano solo in maniera sbagliata all'approccio con la scuola? Penso che la collega di Bologna abbia perfettamente ragione, conosco bene per esserci stato il modello francese, lì fanno 40 ore con un'interruzione il mercoledì per attività sportive e recuperi, è un modello come un altro, però che poi torni a casa con il tempo pieno a far compiti non mi pare giusto, se stai su un tempo corto o un tempo appena prolungato bisogna che alcuni automatismi, alcuni consolidamenti avvengano con un po' di esercizio a casa, ma ripeto, devono essere esercitazioni che tengano conto dei media nuovi, che non è più la scuola degli anni 30, 40 e 50 da un lato, e dall'altra parte devono tener conto delle diverse età della vita, del tipo di clima che si è costruito a scuola, del lavoro reciproco. Si pensi quanto i ragazzi sono in collegamento tra di loro mentre fanno i compiti pur non stando nello stesso posto, per esempio. Un piccolo particolare, stanno al computer a cercare sui media i modelli per risolvere un'equazione matematica e intanto si parlano al cellulare. Allora vogliamo capire com'è il mondo e vogliamo dare delle cornici di organizzazione dell'apprendimento un attimo coerenti con come il mondo, in cui ci sia la fatica, però anche il riconoscimento che oggi le cose vanno diversamente. Ma su questo, sottosegretario, c'è qualcosa allo studio, al ministero? Perché più che allo studio, sono le scuole autonome, noi abbiamo ancora quest'idea tutti quanti che il ministero dall'alto, come nell'Ottocento, dice quello che si deve fare. Le scuole autonome, i gruppi dei docenti si stanno inventando tante cose di questo tipo e quindi si fanno i compiti anche in maniera diversa. C'è tanta fatica, a proposito di fatica e di sacrificio, se proprio si vuole, che organizzati in maniera nuova in giro per l'Italia. Ci sono i docenti che interagiscono con il lavoro online, c'è tanta di quella creatività. E poi ci sono anche quelle belle cose tradizionali, come ricopiare una cosa a casa, certo non il weekend, che giustamente... Che vuol dire ricopiare? Che vuol dire ricopiare? Vuol dire che hai scritto delle cose in terza elementare, hai fatto un po' di errori, li hai corretti in classe, li ricopi a casa. Ma quello puoi deve fare essere... due divisioni in più, due divisioni in più, tre moltiplicazioni in più per consolidare quello che sai. Naturalmente non il venerdì, non il sabato, non la domenica. Sentiamo Sara da Ferrara che ci ha chiamato. Sara, buongiorno. Leggo, ci ha chiamato, è una mamma, quindi... Sì, buongiorno. Dica. Io sono una mamma, ho un bimbo in terza elementare. La terza elementare è una classe molto dura perché comunque cominciano, oltre alla matematica e all'italiano, ad avere anche le materie come scienze, storia e geografia da studiare. Però sinceramente noi tutte mamme della classe ci stiamo trovando in una situazione che cominciamo ad odiare veramente il compito a casa, perché i nostri bambini... Fate un bello sciopero come in Francia, informatevi! Mio marito mi ha telefonato e mi ha detto ascolta Radio 24 perché sono sicuro che ti interesserà. Con un bambino che tutti i giorni arriva a casa da scuola alle 4:20, 4:30. Deve fare i compiti poi. e ha, no, non il compito, fra settimana non ha il settimana compito no, scritto, okay, ma ha lo studio per il giorno dopo. Sì, certo, cioè tutti i giorni deve fare per i compiti, cui, nel senso deve studiare. Una settimana di studio. Mettiamo adesso, come nel mio caso, un giorno alla settimana che debba andare a catechismo. I compiti del fine settimana, perché il sabato e la domenica non sì, è mai successo che siano rimasti senza compiti e senza studio, cioè questi bambini odiano i compiti, questo è... di trovare due ore per giocare. No, per sì, diciamo odiano i compiti o li odiano i genitori. Cristina Petin, un 30 secondi, come si fa a non far arrivare i genitori a odiare i compiti a casa? E non bisogna dare i compiti a casa. Beh, certo, questo... Le 40 ore non prevedono, ma dovrebbe esserci una legge per farlo capire meglio, forse a certi insegnanti. Non possiamo dare i compiti, violentiamo questi bambini, gli neghiamo l'infanzia, il gioco, e gli facciamo odiare le discipline e i maestri e le maestre, non solo. Andiamo a incrinare il rapporto genitori-figli, che è la cosa più... Quindi lei auspicherebbe una legge, ci vorrebbe proprio una legge. Una legge che le 40 ore settimanali tempo pieno e tempo non preveda pieno, nessun altro sforzo. Perfetto, io qui vi ringrazio, stiamo a vedere poi come evolverà la situazione. Ringrazio il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria e Cristina Petin, insegnante nella scuola primaria di Bologna, blogger, autrice del libro Maestra Piccola. Allora, ci potete seguire ovunque, da Twitter, @24mattino. Io sono @Lino Milan. Saluto anche il nostro Peter Bescapè in regia. Ah, beh, sì, è tornato e quindi deve metterla. Con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, anche Miriam Lucchetti e Viola Bottoni. Ciao a tutti e ci troviamo domani alle 7:20. Parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, a tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 13 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco ad prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.